Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, sono le 8:15 minuti e il gallo Belotti è ancora vostro. Vedremo. Alle 9:30 non si saprà. Però ecco, ha smesso di cantare, quindi, quindi vuol dire che c'è chi lo sta seducendo. Hai visto, forse lo mettono in questa quarta gamba, il nuovo partito che Berlusconi ha architettato per evitare di far cadere il governo, ma riacchiappare tutti. Ma sai che c'è gente proprio che scrive e dice, ma non ho capito, ma litigate tu e Giannino per Belotti? ragazzi. Ma io dico, ma va bene tutto. Non avete capito, siamo totalmente conniventi nella reciproca irrisione, cioè siamo dei tifosi ideali, perché credo che con gente così, portandoci la squadra, non ci sarebbero violenze, finirebbe sempre tutto a reciproco sfottò, quello quello. È fondamentale, no? Questo insomma dovrebbe essere. No, sì, Berlusconi effettivamente fa questo, che non l'ho capito bene, cioè perché non vuole che vadano tutti da lui subito, ecco, sennò cioè, c'è la crisi di governo. Che torni, no. Li tiene in ghiacciaia. Ecco, c'è una specie di stanza a temperatura intermedia, per così dire, no? Sì, sì. E dove quindi dice state lì un po'. State lì. State lì, state pronti. Continuate a dire che Gentiloni non è male, così facciamo anche arrabbiare l'altro, lo indeboliamo. È tutto. Però mettiti nei suoi panni. Io a volte ridacchio, anche lì ridacchio. Anche lui ridacchierà. Perché capisci che è dato per morto, peggio di. Cioè, in realtà è un Dracula eterno. Un Dracula eterno, è vero. Però è un Dracula mattacchione, come devo dire. Se ti ricordi, 6 anni fa sembrava lo sterminatore di. E invece lui è lì che ridacchia. E tutti tornano a lui. Io sono convinto che quando tu sai che c'ha la cappella ad Arcore, no? Si è fatto fare la cappella dove tiene le ceneri della madre e così via. E lui dice sempre che quando si sposta va sempre lì a parlare con la madre. E io sono convinto che questo aspetto, che è un po' foglietton popolare, sia abbastanza vero. E secondo me ridacchia quando dice, ma lo sai, mamma, che vi è tornato? Ma pensa un po'. Pensa anche Costa. Hai capito? Io a volte lo immagino un po' così. Non lo sto dicendo prima che equivochiate in ascolto, perché sono anch'io, per così dire, prendo sul serio queste cose. Mi appaiono come un tratto dell'eterna commedia italiana che oscilla sempre tra la tragedia e la farsa, perché poi questo è no. Però per carità di Dio, rispetto tutti i cambiamenti di idea dei politici, figuriamoci, adesso non voglio essere equivocato. Comunque, caro Oscar, non perdiamoci i santi, non perdiamoci i santi. Oggi è Santa Apollinare, perché molti, io capisco che vanno a Ravenna, vedono che c'è Santa Apollinare nuovo, Santa Apollinare in classe, però questo Apollinare è veramente stato il, si chiama protovescovo, cioè il primo vescovo di Ravenna, cioè l'evangelizzatore dell'Emilia Romagna, per capirci. E si dice che fosse vescovo, ma che fosse stato Pietro, San Pietro, di cui era discepolo, a dargli il compito di dire no, devi andare in Italia e iniziare in Italia del Nord a diventare il propagatore di nostro Signore Gesù. Quindi il culto Ravenna di Santa Apollinare deriva dal fatto che lui è lì quello che li converte fin dal primo secolo. Però oggi si festeggia anche uno dei grandi profeti dell'Antico Testamento. Perché Elia, perché si festeggia ed è a tutti gli effetti nel calendario liturgico cattolico, perché di solito i profeti si sono ricordati ma non sono considerati fondamentali, invece per Elia è una specie di eccezione. Perché? Perché questo profeta del X secolo avanti Cristo, in realtà, che non ci ha lasciato libri scritti, però è considerato per il fatto che il Battista, Giovanni Battista, fa riferimento a lui, Gesù fa riferimento a lui, le sue profezie sono quelle che si compiono, quello delle profezie del cosiddetto Dio vivente, cioè il più grande thread union tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Quindi anche auguri a chi si chiama Elia. Oggi nel 1969, in un'indimenticabile notte per me che ero, no, insomma, piccolo ma non piccolissimo, e a cui la madre voleva negare, ovviamente, vista l'ora, pure questo, di vedere lo sbarco sulla Luna, perché veniva alle 2 di notte e così via. Ti ha negato tante cose. E io stavo dietro la porta chiusa, eppure non mi persi Armstrong e Aldrin. Esattamente, la storica cosa di Tito Stagno con Ruggero Orlando su ciascuno dei due voleva sapere il secondo preciso, nessuno dei due vedendo niente, vabbè, ma sono pagine epiche del giornalismo. E la Luna, il famoso finto volo sulla Luna, per alcuni non è mai cambiato. No, perché se c'è una cosa che fa arrabbiare Oscar è dire questa cosa, ma lo sai che è tutta una finta. No, perché ci sono le prove per così dire. Però inutile riaprire un discorso. A me interessa solo dire che in 8 anni da quando nel 61 Kennedy lo annunciò, 8 anni dopo nel 69 si fece, cioè sono cose che se vedete quante piccolezze vengono annunciate in Italia da parte dello Stato e dopo 30 anni non si fanno, ecco, è un esempio. Naturalmente è anche l'anniversario terribile del G8 di Genova 2001. E infatti ieri Piazza Limonda, questa intervista del prefetto Gabrielli della polizia su Repubblica ha creato molto dibattito. Ha creato molto dibattito, ha parlato di tortura per la prima volta. Io ti dirò la verità, un po' controcorrente, perché molti hanno detto: ah, però coraggioso il capo della polizia che dice che De Gennaro, capo della polizia dell'epoca, doveva dimettersi. Ti dirò, a me non sembra una cosa straordinariamente coraggiosa che la bellezza di 16 anni dopo il capo della polizia dica che 16 anni fa il suo predecessore doveva dimettersi. Secondo me un grande paese è uno che un capo della polizia lo fa dimettere subito di fronte a Genova, e subito, al di là dell'accertamento della responsabilità, perché c'è un tale problema di rapporto di fiducia che si scalfisce, che queste sono le decisioni da prendere ogni caso. Però no? L'allora ministro dell'interno Scajola dice oggi sul giornale, dice: Di Gennaro propose le dimissioni, cioè consegnò la proposta di dimissioni, una decisione politica sbagliata, perché questa cosa poi magari i magistrati lo avrebbero assolto da tutto, però di fronte a cose come quelle la mia opinione è che bisogna operare una discontinuità. Oltretutto ti faccio osservare, aspettare 16 anni per dire queste cose, ora che c'è chi ha scontato le pene tra i funzionari di polizia e chiedere servizio, come si legge l'intervista di Gabrielli di ieri, cioè è un no alla reintegra di chi la chiede, che riapre polemiche. Io temo sì, la Repubblica di oggi infatti dice, ma insomma è un'intervista che fa quasi risalire, tirare sul capo a una fronda interna, cioè a chi dice non ci fate processi. Vedremo, non voglio sembrare quello che critica l'intervista di Gabrielli, che comunque ha un'apertura, per così dire, che all'epoca non ebbe la polizia, però secondo me è un'operazione tardiva con grandi problemi dentro. Tra l'altro, a proposito di spaccati, ogni tanto ci sono degli spaccati, delle notizie che raccontano un pezzo d'Italia, per carità, come tutti gli spaccati sono parziali, ma la vicenda che c'è su oggi su tutti i giornali di questo immigrato clandestino Gambiano, che ha coltellato un poliziotto alla stazione di Milano e dopo 2 giorni è libero, di fatto libero, cioè no, deve presentarsi a firmare dai carabinieri, però 2 decreti di espulsione alle spalle, ora forse arriverà il terzo, lui che accoltellando e il GIP che lo lascia in libertà, che dice voleva solo divincolarsi e non aveva l'intento di uccidere perché non ha neanche attinto la pelle del poliziotto che aveva il giubbotto antiproiettile. Cioè sono cose che in punta di diritto, oggi c'è anche un magistrato che io stimo molto, Fabio Roia, che spiega come in punta di legge è tutto capibile. E però io fatico a capirlo, ecco, dopodiché... Ma io mi limito alla cosa banale che i giornalisti devono sempre avere in mente, quali sono le 3 ragioni per la misura cautelare che riguarda la libertà, no? Io capisco che loro dicono la fuga non troppo, le prove d'altrare non ci sono, però la reiterazione del reato siamo così sicuri che la tipologia non sia quello di un seriale, perché già col coltello aveva minacciato, esatto, vorrei dire passato. E ha 2 espulsioni alle spalle non eseguite. Su questo anch'io condivido i tuoi dubbi, ma poi tecnicamente, visto che c'è secondo me una delle 3 ragioni per la custodia cautelare, che mi sembrano rientrare e adattarsi esattamente al suo tipo di profilo. Ma poi noi non siamo certamente giustizialisti, non lo è credo neanche Massimo Gramellini, che è spesso accusato di buonismo, e invece in prima del Corriere, voglio dire, rimane abbastanza sconvolto a dire ma che succede? Cioè, dobbiamo poi indignarci quando porterà a compimento con il coltello fino in fondo il proprio proposito? Non lo so, voleva solo divincolarsi. Comunque, come c'è certo, una... non ci stupiamo che l'effetto di notizie come questa siano quelle poi che l'opinione pubblica, no? Diventa un po' più... cattività, mettiamola così. E insomma, sul tema immigrati è difficile che ragioni con più apertura ed equanimità, se vede che poi... Come ci sono degli spaccati, uno è stato raccontato ieri dai giornali, la storia di questo professore che con tanto di cattedra a Lodi e Codogno, lombagine, che aveva la lomboscialgia. E noi ci ridiamo, ma in realtà chi non ci ha riso per anni, credo, sia la dirigente scolastica Antonia Rizzi, che è con noi e che salutiamo. Buongiorno, buongiorno professoressa Rizzi. Istituto Superiore di Codogno, Istituto Merli, Villa Igea, provincia di Lodi. Siamo in provincia di Lodi, dove il professor Mercatante aveva una cattedra, nel senso che era di ruolo, no? È così. Tra l'altro insegnava di diritto, questa cosa... Anche discipline giuridiche, diritto. Discipline giuridiche, diritto. Eppure era avvocato a Vibo Valentia ed è stato assente tra permessi, malattie, per quanto, professoressa? Allora, io sono in questa scuola dal 2014 e da quando io sono arrivata il professore non ha mai preso posto sulla sua cattedra, insomma, non ha mai fatto un giorno di lezione. Mai un giorno di lezione. Cioè, lei l'ha mai visto? Sì, qualche volta? Forse. Sì, l'ho incontrato fisicamente poche volte, 3-4 volte. Mm. Sì. E cosa diceva? Perché ovviamente mandava certificati. No, mi mandava dei certificati, che erano certificati, come dire, regolarmente inviati. Peraltro, quando noi riceviamo un certificato medico, chiaramente la patologia non la vediamo. E poi non è, come dire, compito nostro entrare nel merito della patologia, nel senso che se un medico certifica che un lavoratore non è in grado di presentarsi al lavoro, questo punto. Basta, punto. Esatto. Qualcuno ironizza, ci scrive, dice più che la lomboscialgia aveva la lombardoscialgia, cioè nel senso che non voleva venire in Lombardia forse a prendere. No, può darsi, non lo so. No, perché si ride. In realtà il problema è molto molto serio, come ieri abbiamo parlato anche con Oscar, perché insomma, avere un ruolo, avere una cattedra, non presentarsi mai, vuol dire intanto che esempio si dà ai propri allievi, ai propri scolari, insomma, ai ragazzi e alle ragazze. Chiaro che il lavoro dell'insegnante, al di là della trasmissione di contenuti, discipline, eccetera, è fondamentalmente un lavoro educativo, di tipo educativo, per cui i ragazzi, fra l'altro i bambini e i ragazzi sono bravissimi a capire chi hanno davanti, per cui non è difficile ingannare i ragazzi. I ragazzi vedono, si accorgono, sanno, capiscono, colgono tutte le incongruenze, per cui è chiaro che questa non presenza è stata colta, sicuramente no, come qualcosa di positivo, soprattutto nel momento in cui si sono alternati più supplenti nel corso dello stesso anno scolastico, perché non sempre è stato possibile garantire la continuità. Quest'anno per fortuna ci siamo riusciti, lo scorso anno anche, negli anni precedenti non è sempre stato così, quindi insomma è stato effettivamente un disagio e non una bella situazione. Senta, posso fare una domanda tecnica? Perché più volte mi è capitato, mi occupo spesso anche nel pomeriggio di scuola, di parlare con dirigenti scolastici e alle prese con persone che presentavano nel tempo, diciamo, profili sospetti. Allora, da questo punto di vista, il dirigente scolastico, che come ci ha ricordato prima, deve stare alle comunicazioni che riceve relative a attestazioni di patologie o al ricorso di legge 104, insomma, tutto ciò che l'ordinamento legittimamente consente, no? Ecco, ma qual è il limite oltre il quale il dirigente, che è tenuto a prenderne atto, perché non è che può aprire istruttorie formali su web, private o con le risorse scolastiche, ma qual è il limite oltre il quale si deve porre il problema e a quel punto cosa può fare per intervenire, che segnalazioni fa, cioè qual è il punto, perché è difficile, perché è ovvio che la gente prende voi come responsabili, ma voi il potere in realtà non ce l'avete. Come dirigenti scolastici, rispetto, diciamo, al reclutamento del personale, alla scelta del personale, potere, se così lo vogliamo chiamare, ne abbiamo poco, nel senso che comunque arrivano dei docenti che per lo più sono brave persone che fanno bene il loro lavoro, ogni tanto arriva qualcuno che insomma non è in grado, o come in questo caso proprio non gli interessa, se lo fa altro. Allora ci sono poi vari canali, dipende dal tipo di situazione, come dire, ci sono situazioni che vanno segnalate, situazioni che riguardano appunto la presenza a scuola, l'irregolarità nelle certificazioni, i ritardi o determinate omissioni nel compimento dei doveri, che vanno segnalate, diciamo, rispetto alle quali in alcuni casi interviene direttamente il dirigente scolastico, oppure si fanno delle segnalazioni all'ufficio per i procedimenti disciplinari territoriali. Per cui ci sono questi canali. Per quanto riguarda, perché il problema del professore non era tanto che lui fosse in malattia o che facesse l'avvocato, ma qual perché entrambe le cose sono legittime, nel senso sì. Uno può essere malato e un pubblico dipendente può a determinate condizioni esercitare anche la libera. Il problema è che non faceva quello per cui era pagato dal pubblico. Esattamente, che non facesse le due cose, cioè non usufruisse di entrambi i diritti in contemporanea, perché questo ovviamente non è ammissibile, cioè lo capisce chiunque. Ecco, il problema è questo, no? Usufruire di un diritto che è quello della 104 o della malattia o dei permessi, che comunque insomma sono garantiti, sono tutele per i lavoratori diritti, e utilizzare questo tempo, peraltro retribuito, per fare un altro lavoro. Sì. No, perché in maniera brutale un ascoltatore, appunto, implementando la domanda di Oscar Giannino, dice: ma non si può mandare una visita fiscale ogni due giorni? Cioè non è nel suo potere dire punto, dopo otto giorni, dice basta, certo, mi sono stancato. No, le visite fiscali sono state mandate. E non è, come dire, non è mai emerso nulla. Allora, ma lì è chiaro che poi sottolineo tre volte questa cosa, le visite fiscali che ascoltate sono state mandate, ma non accertavano nulla. Voglio dire, moltissimi ci dicono: e per carità, non è nostro compito fare i processi, bisognerà vedere anche tutti questi certificati, cioè, che sono stati firmati da un medico, credo che l'indagine sia anche in questo senso, non è che cioè, perché è ovviamente una lombosciatalgia di 7 anni che però ti consente di fare udienza Vibo Valentia e non Che la nostra segnalazione è partita non tanto sulla situazione di malattia, sulla quale, ripeto, non essendo né io né i miei collaboratori medici in grado quindi di valutare la gravità, l'importanza di una patologia, la segnalazione è partita nel momento in cui io ho avuto, diciamo, più che un sospetto, facendo una ricerca su internet, che il professore in uno dei periodi appunto di malattia avesse preso parte a una causa, a un'udienza, avesse partecipato a un'udienza in tribunale, perché poi esistono, no, queste banche dati, questi siti dei tribunali dove per lo più le ordinanze, insomma i documenti sono pubblicamente accessibili. Per cui, ecco. Senta, ma non è che lei, perché ricordiamo, questa persona è stata arrestata e ci sarà un processo, non è che se lo ritrova professore? No, professore non è più in ruolo, non è più in servizio, già da qualche mese non è più, non fa più parte della pubblica amministrazione. Ok. Ma nel senso che non potrà fare ricorso, cioè nel senso, lei che conosce il meccanismo scolastico meglio di noi. Sulle possibilità di fare ricorso, su questa io credo che ce ne siano molto poche. Molto poche. Nel senso che il caso sembra eclatante, questo. Sì, poi per carità non sono nemmeno un avvocato, per cui non ho idea, però al momento e per il prossimo anno scolastico il professore non sarà più. Dice, il problema voi ve lo siete tolti, ecco, diciamo così. Lei non è avvocato, lui sì invece, quindi magari saprà meglio di lei difendersi. Ma poi per carità, giustamente, voglio dire, adesso questa, come dire, notizia è sicuramente ha suscitato molto interesse, molto dibattito anche sui social, su internet, perché è chiaro che è molto curioso e molto particolare. Chiaramente adesso le indagini andranno avanti, ci sarà un processo, verranno, come dire, definite per il momento, ecco, quello che a me interessava era risolvere un problema serio. No, no, ma perché ricordiamo, ringraziarla, insomma, 1533 giorni di assenza tra malattia, permesse, richieste di assistere il padre malato, tutte cose anche legittime. Sì, ma che mettevano nei guai chi deve pianificare la continuità dell'offerta formativa, perché tu non sai mai come il prossimo anno si articolerà, se dietro c'è un soggetto simile, l'evoluzione dei suoi strumenti giustificativi dell'assenza. Ricordiamo ieri la cifra citata da tutti i giornali, 650.000 insegnanti che hanno fatto click sul ministero, sul sito del ministero, per poter ottenere una supplenza anche temporanea. Certo, sì. No, in realtà poi appunto il problema era anche la garantire la continuità, no, nella chiamata dei supplenti, siccome anche lì per il reclutamento appunto bisogna seguire determinate procedure, spesso l'interruzione del periodo di malattia ci costringeva a ripercorrere le graduatorie e quindi nominare a distanza di tempo un supplente diverso. Certo. Ecco perché poi nel corso dell'anno scolastico abbiamo avuto anche insomma un'alternanza di docenti, e questo ovviamente non va bene, non è positivo, anche se devo dire nel corso degli anni abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone molto, molto valide, e poi molto non brave, certo. Si sono prese a cuore le classi, che hanno fatto tutto quello che insomma andava fatto anche per recuperare, per così insegnare e trasmettere nella maniera migliore le discipline. Noi la ringraziamo, Antonia Rizzi, grazie, dirigente scolastico all'Istituto Superiore di Codogno e Istituto Merli Villeggia Lodi, dove si è prodotto il ruolo questo professore, che tra l'altro raccontava anche è stato un ex sindaco e forse del paese, dove anche impegnato nella legalità, non si è fatto mancare assolutamente nulla. Allora vediamo chi è che ci sono di ascoltatori. Giancarlo da Torino, buongiorno Giancarlo. Buongiorno signor Milan. Sì. Io chiamo in riguardo a quel provvedimento che è stato preso da quel giudice per quel quell'extracomunitario che ha coltellato il poliziotto. Io dico, certo che ci vuole, da parte mia, secondo la mia considerazione, ci vuole un bel coraggio liberarlo dopo che aveva delle recidive, e che comunque se il poliziotto non avesse avuto il giubbotto l'avrebbe ammazzato. Ma poi ci siamo dimenticati che 3 anni fa Cabobo ne ha colpiti 5 e ne ha ammazzati 3. Cioè, dico, non sarebbe il primo caso. E poi di quell'altro che girava per Milano con appunto il macete. Insomma, sono delle cose scandalose. Bisogna dare delle punizioni esemplari, di modo che altri non si sentono poi incoraggiati a fare la stessa cosa. Tanto lo faccio, tanto poi appunto mi buttano fuori. Guardi, diamo dei cattivi esempi. Non so se esemplari le punizioni. Forse, Oscar, si può dire le punizioni giuste. Ma per il GIP Maria Vicidomini, che lo ha scarcerato, la giusta sanzione è quella che è la decisione che è stata presa. La misura cautelare non è mai una sanzione, cioè noi non siamo, non è ancora il processo, stiamo parlando di una misura cautelare. Quindi. Ma se avessero colpito lei o un qualche suo familiare, non so se si Ma guarda che, come ho detto prima, la penso come lei, anch'io non condivido, perché secondo me tecnicamente una delle tre ragioni invece delle misure cautelari mi indurrebbe a dire che bisogna tenerlo dentro, cioè... Ma bisogna buttarlo dentro e cacciarlo a calci nel culo al suo paese da dove è venuto, perché come quello ce ne sono tanti in Italia che sono dei clandestini assolutamente, che non dovrebbero stare qua. Però Giancarlo, secondo me bisogna essere un po'. So che è difficile, come dire, spogliarsi anche della rabbia che capisco e che monta e che c'è, e applicare in maniera però asettica, non rabbiosa, senza dire calci nel culo, applicare. Però è difficile, cioè misure come queste sono fatte apposta per ottenere l'effetto opposto. È chiaro che se uno legge tentò di accoltellare un agente, il migrante scarcerato perché la GIP dice voleva solo divincolarsi, anche il sindaco Sala, che anche lui non è un giustizialista, ha già usato il coltello, dice resto a bocca aperta di fronte a una cosa del genere. Comunque, Giuseppe dalla provincia di Belluno, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire riguardo alle assenze del dottore, del professore, dei 1500 euro. Sì, professore e avvocato. Sì, anche in merito a tutte gli accertamenti riguardo ai falsi invalidi e così via, i ciechi che guidano l'automobile, eccetera, ma soprattutto anche su questo intervento, su questo fatto, non ho mai letto da nessuna parte che un medico sia stato radiato dall'ordine su queste cose, né ho mai c'è un'omertà totale anche da parte appunto dell'ordine dei medici, che non abbia mai fatto, non so se sia fatto parte civile nel processo o così via, e c'è una difesa assoluta di questa di questo esercizio della professione, evidentemente ora dire che non ci sia il codice penale, sì. Insomma, ecco, per cui io credo che se ne mandassero a casa 10, forse in Italia queste cose non succederebbero più. Secondo me ha così ragione che più volte ho fatto trasmissioni documentando come gli ordini professionali hanno delle responsabilità nel tenere la posizione che non si radia nessuno fino alle sentenze passate in giudicato, e talora neanche in quel caso, perché si adottano comunque misure diverse dalla radiazione, ricordando che quando è capitato, perché per esempio questa cosa ha un rilievo assoluto in tutti gli ordini professionali i cui appartenenti sono essenziali per le grandi reti criminali, perché la grande mafia, la 'ndrangheta, la camorra non esisterebbero senza avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri al loro servizio. Purtroppo è così. Sì, ma allora, e che non vengono mai radiati. Quando ci ha provato definitiva potrebbero sospenderli. Quando ci ha provato un appartenente, anzi è diventato un dirigente del Collegio degli Ingegneri, dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo, è successo la DD, alla fine per un motivo o per l'altro hanno mandato a casa lui. Questo per dire che lei tocca un punto, secondo me, verissimo. Sì, vale per i medici, ma diciamo si può allargare appunto per agli tutti ordini, gli ordini, generale, cioè anche. Lei tocca un punto delicatissimo, proprio importante. Su queste cose potreste fare magari un paio di puntate. Ma guardi, in realtà la vicenda era venuta fuori anche, non so, per esempio la vicenda Previ, ti ricordate la sentenza definitiva, ma è rimasto per anni e non lo so se non sia ancora nell'elenco dell'ordine degli avvocati. Cioè sono vicende che lei tira fuori per la questione del medico. Certamente i medici, ma riguardano un bel po' di ordini. Ma riguarda un bel po' di ordini. Sì, tra l'altro non sappiamo, io non metterei la mano sul fuoco. Sì, va bene Giuseppe, prendiamo spunto dell'invito di fare puntate. Però adesso non metterei la mano sul fuoco che non esista nessun medico radiato dall'ordine per questa cosa. No, però magari c'è una certa proclività a prendere tempo. Magari anche lentezza, soprattutto nell'aspettare le sentenze. Allora, grazie Giuseppe, andiamo un attimo in pubblicità, perché poi, caro Oscar, parleremo di un'altra vicenda, un altro spaccato italiano, quello dell'ATAC, ecco. Dove si lavorava all'ATAC, si lavora all'ATAC e per molti c'è anche un secondo lavoro, spesso durante gli orari di servizio dell'ATAC. Reazione dei sindacati che considerano questo una campagna, sì, oggi il messaggero però ci torna sopra. Avremo un sindacalista che sicuramente... C'è un'indagine interna, nel frattempo è notizia di ieri la conferma che dei... 190 dirigenti del Campidoglio, 70 sono indagati, e questo mi sembra una buona certificazione della dilapidazione morale che i partiti in 20 anni hanno fatto in Campidoglio. I partiti, io ci metto dentro destra e sinistra, e non c'entra niente il colore attuale, perché sono 70 su 190 indagati, è quello che per tanti anni è andato avanti a Campidoglio. Terzo sotto inchiesta. Ieri ce n'era uno che è stato arrestato, dirigente del Verde, cioè funzionario ambientale agli ambienti, ai parchi di Roma, e questo dirigente truccava le gare, ne chiudeva 12-20 minuti perché le aveva preconcordate con i vincitori. Tanto è vero che ho chiesto su Twitter: cosa fareste a uno così? Io gli direi: beh, adesso i parchi, no, la mia idea sarebbe adesso i parchi per un po' di anni li vai a pulire. Sai perché lavoro utile. C'è un ascoltatore al quale ho risposto che via WhatsApp dice: ma come no, calci nel culo, calci in faccia. Ecco, io no, ecco, li dia lei, come le ho risposto, caro ascoltatore. Anzi, gradirei che il mio stato in cui vivo non li desse, i calci in faccia, i calci in bocca, i calci nel culo, i calci dove vuole lei. Magari applicasse lei. Però, niente se Genova. Esatto, no, perché abbiamo parlato della vicenda di Genova, il G8, però siamo al calci in faccia, ammazziamolo. Faccia lei. E lo stato dove lei pensa di vivere, no? Che non è, spero non sia il mio. Comunque andiamo alla pubblicità. 24 mattino, attenti a noi due. Allora c'è Flavio dalla provincia di Treviso. Buongiorno Flavio. Buongiorno a voi. Eccoci. Allora, la mia domanda era questa qui, perché è già più di una volta che il presidente Boeri torna su questo discorso, e non vorrei mai che passasse, ho una proposta, anche se lui non lo dovrebbe fare, di togliere l'esenzione delle tasse a coloro che vanno a abitare all'estero, che prendono la residenza all'estero. Mm. Dico questo perché invece se noi facciamo una semplice divisione da quello che lui ha detto, il miliardo e qualche cosa, diviso il numero delle pensioni che lui eroga, viene fuori una media di 2.600-2.700 euro al mese. Allora io dico, mi domando questo, perché questi signori vanno all'estero? Perché possono. Primo. Secondo, no, ho capito, perché... possono perché... vivere con la pensione qui, mentre Flavio riescono a sbarcare il lunario, Flavio, secondo il mio punto di vista. Flavio, ci sente? Sì. Perché vanno all'estero? Perché per una libera scelta lei può andare a vivere dove vuole, no? Credo. Sì, certo, per carità. Però il motivo fondamentale è questo. Per pagare allora, meno tasse. Se sì. Vogliamo far rientrare questi signori e far sì che i consumi vengano fatti qui in Italia, non sarebbe più opportuno, fino a un certo reddito chiaramente, di pensione, togliere anche qui. Ma Flavio, perché lei vuole obbligare una persona che vuole andare a vivere liberamente in Portogallo a rientrare? Cioè, in nome non di voglio mica obbligare questo. Considerato che mi faccio questa domanda e lo chiedo a quelli che sono all'estero, e cosa che loro hanno risposto in diversi servizi televisivi e anche se va a vedere su YouTube le varie interviste, la maggior parte di questi signori ha detto che con la pensione in Italia non riesco a vivere. Sì. Mentre all'estero riesco a vivere. E beh, in Portogallo non è tassata. È il Portogallo, visto che avete menzionato il Portogallo. No, quindi vabbè, Flavio dice andrebbero tolte le tasse anche in Italia. Ecco, questo sarebbe un effetto positivo. Credo che più invece dicano leviamogli le imposte e facciamole tornare qui perché devono contribuire ai consumi italiani. Credo che ieri il presidente Boeri, sapendo quanto alto fosse il rischio di equivoco su quello che ha detto, abbia sbagliato a dirlo così. Sono proprio brutale, perché io molte volte lo ringrazio per quello che dice sul ricalcolo contributivo di molti regimi, di chi ha pensioni multiple rispetto a quello che ha versato. Però ieri, secondo me, ci doveva pensare meglio, perché molti nei media puntano a spiegarvi, Boeri punta il dito contro i pensionati italiani all'estero. E questo diventa una semplificazione che è sbagliato attribuire a Boeri e che purtroppo però è il messaggio semplificato che è passato. No, Boeri non ha detto i pensionati italiani devono tornare coattivamente in Italia perché in questo modo non contribuiscono ai consumi italiani. E questa è una visione autarchico-fascista rispetto alla libertà personale. Il problema di Boeri però è che doveva sapere che c'era un alto rischio. Lui dice ci sono... tra molte delle pensioni che pago, delle integrazioni a carico del sistema, cioè dell'INPS, rispetto ai pochi contributi versati. Ci sono casi di contributi e allora in quel caso, cioè sono prestazioni assistenziali, non previdenziali, io sto sgravando una prestazione assistenziale del paese in cui quello è andato liberamente a vivere, che capisco tecnicamente è difficile da spiegare, però lui ce l'ha con questa roba qua. Sì. E poi dice, e anche sulla quattordicesima, quella che è stata ripristinata e allargata, ho dei problemi. Quindi lui non ce l'ha con non la libertà ce l'ha con del chi, pensionato. Esatto, con chi vuole andare in Portogallo. Solo che il messaggio è stato semplificato dicendo, Boeri non si pagano, ma perché devo pagare le pensioni all'estero? No, non è così. Quanto al nostro ascoltatore, magari la politica italiana capisse che deve diminuire le tasse, magari, perché credo che invece assecondi la cosa nazionalista sta dicendo pensionati bisogna tagliare gli accordi che evitano la doppia imposizione, perché dateci le tasse o vi tagliamo le pensioni, ecco questa è. Allora, viva però... il Duce, che è una cosa che purtroppo che si sente oramai però ci ha colpito leggere ieri sul Messaggero, si torna alla vicenda anche oggi, della questione ennesima dell'ATAC, che viene definita dal Messaggero come uno scandalo, cioè ci sarebbe un'indagine interna già partita, azienda dei trasporti municipalizzata di Roma, per cui l'impiego extra sarebbe diffuso tra dipendenti dell'ATAC, dipendenti che in alcuni casi, queste sono le accuse, anche magari prendendo un permesso di lavoro retribuito quindi dall'ATAC, intanto vanno a fare un altro lavoro. Chi il piastrellista, chi l'elettricista, chi l'idraulico, chi il cassamortaro, vabbè, insomma, vari lavori, doppio lavoro, uno pagato da noi e uno privato, che è uno che porta a un guadagno. Noi abbiamo chiamato ed è con noi un sindacalista USB dell'ATAC, Michele Frullo, che però ci ha abbandonato poco prima di, nel senso che è caduta la linea. Adesso stiamo cercando di recuperarlo, era in linea con noi. C'è Marco da Roma, vediamo un po' Marco che ha da dire. Buongiorno. Ma io volevo semplicemente riportare la mia esperienza da utente ATAC, e la sensazione è quella di essere sostanzialmente in ostaggio di un'azienda che non riesce a garantire il servizio che dovrebbe, e la condizione è quella di non avere alternative al momento. Per cui io personalmente penso che i progetti che ci sono ora di liberalizzare, aprire al mercato il servizio pubblico, sì, possa essere quantomeno un'idea. Allora, va bene, no, questa è l'idea, perché abbiamo recuperato, sennò poi dopo finiamo la trasmissione e siamo sempre di corsa. Michele Frullo, buongiorno, c'è, ci sente? Buongiorno a voi. Eccoci, buongiorno. Adesso vi sento, scusate. No, ci mancherebbe. Allora, ci sono casi, ovviamente, come dice Oscar, è come chiedere all'oste se il vino è buono. Sono casi, lo chiediamo a lei sindacalista, di doppi lavori di dipendenti ATAC? Non è che solo dei dipendenti, il doppio lavoro purtroppo è un caso che coinvolge tutte le categorie, che purtroppo da quando c'è stato l'impoverimento degli stipendi e delle retribuzioni, molti lavoratori sono costretti a fare un secondo lavoro. Io lo direi, come organizzazione sindacale, per noi il lavoro sommerso e il lavoro nero non deve esistere, anzi devono esistere delle retribuzioni che possono permettere ai lavoratori di guadagnare e poter avere una vita serena e tranquilla senza dover morire di lavoro. E quindi con noi, quindi c'è, ma ci sono, però scusi, il problema è, ci sono casi di doppio lavoro prendendo magari un permesso, mettendosi in malattia? No, questo. Lei mi fa una domanda che spesso purtroppo non lo posso sapere, perché personalmente io lo combatto il doppio lavoro, perché c'è tanta disoccupazione, preferisco che possa lavorare, però questi possano lavorare un disoccupato che uno che faccia una doppia mansione. Ma il doppio lavoro non conviene mai al lavoratore, ma conviene molto ai padroni, perché poi sono loro che non pagano le tasse, sono loro che si sgravano di tutto quello che compete il lavoro nero. Quindi se poi c'è qualcuno che lo fa quando è in ferie, non glielo so dire qui. No, in ferie, no, qui si parla di indagine, non in ferie. Se prende un permesso, se prende una licenza, se si mette in malattia all'ATA che va a fare un altro lavoro, capisci? Ma non è l'ATA, che per noi non va bene, per noi è condannabile, chi viene preso a fare questo tipo di attività, per me ne deve pagare le conseguenze, perché ovviamente non si può fare. Però ripeto, il problema del doppio lavoro è perché purtroppo non si sopravvive, si sopravvive con gli stipendi attuali. C'è la crisi, questo è quanto. Poi oggi stiamo scioperando contro le privatizzazioni, perché oggi. Beh, diamo una notizia che farà felice. Che lo sciopero è giovedì e non venerdì. La notizia è questa, l'unica notizia. Diamo una notizia che farà felice gli utenti. No, è chiaro, farà felici gli utenti. Cioè, oggi l'ATAC, i mezzi circolano, non circolano? Non dovrebbero circolare, chi aderisce allo sciopero, le metropolitane hanno già chiuso dalle 8:30 alle 12:30 e si sciopera perché si sta combattendo la privatizzazione. Abbiamo visto che il privato non funziona qui in Italia, non funziona qui a Roma già il privato esiste al 30%. Il pubblico sì, invece. Il pubblico non funziona perché non ci si investe, e il problema sono gli investimenti. Se non ci si mettono persone capaci, non ci si mette gente che si mettono i soldi, torno un attimo indietro. Sì. Il problema grosso oggi è che Roma, che è la città una con la densità e la vastità territoriale, una delle più grandi d'Europa, il parco vetture più vecchio d'Europa, e secondo me c'è un problema che non va bene. Lei, quando l'ho sentita dire la parola padroni, Oscar, cioè, lei li chiama ancora i padroni. Perché esistono ancora alla vecchia maniera, purtroppo. I padroni. Perché società pubblica, 100% rapporta, quando ci si rapporta con queste aziende private si sentono veramente... Siete pubblici al 100%, scusi, lei rappresenta lavoratori nella società municipalizzata da anni certificata, la più scassata ADAC, d'Italia. Sto parlando di ADAC. Poi a Roma c'è anche Roma DPL che fa il 30% del servizio. Noi stiamo parlando di ATAC invece. Quindi che i privati non funzionano quando si parla dell'azienda più scassata d'Italia, cioè 850 milioni persi in 5 anni di bilancio. Sì. Lei dice investire, grazie, significa bruciare grazie a costi fuori luogo. Recupera l'azienda, recupera poco più del 30% dei propri costi vivi da quello che prende come tariffe. Lei dice buttiamo soldi pubblici. Allora, guardi, apre oggi il Messaggero. Oggi apre il Messaggero e trova quattro fascicoli della Procura aperta su licenze facili ai sindacalisti. Sto parlando della Procura di Roma, sono i sindacalisti dell'ATAC. Le organizzazioni sindacali che stanno lì, perché se lei legge UFI allora ha ragione ad arrabbiarsi con me, se invece legge i concertativi è un'altra situazione, che per me sono loro che stanno massacrando il mondo del lavoro, quindi con me sfonda la porta aperta. Le guerre tra sigle sindacali. Non è una guerra, per specificare, primo. Secondo, a Roma c'è ADAC e c'è Roma DPL. ADAC fino adesso l'ha depredata tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute fino adesso, quindi non sono stati i lavoratori e non sono state stato diventare la mia sigla. Il problema grosso è proprio questo, che fino ad oggi chiunque ha messo mani su ADAC l'ha depredata, l'ha distrutta. Il pubblico e la depredazione, non i privati, il pubblico, gli amministratori, l'azienda pubblica più scassata d'Italia. Deve fare un esempio di privato che funziona. L'Italia ha funzionato dopo 10 anni che è stato lei però ci sta certificando che il pubblico ha fallito. Ma se non si fa una gara in tutta Italia per il trasporto pubblico, dove sta il privato? Ci sono aziende pubbliche come la TM di Milano che funzionano, le gare non riusciamo a ottenerle, quindi dopodiché che cosa vogliamo dire? Vogliamo parlare delle tratte urbane che l'ATAC ha invece dato fuori dall'ATAC, il Comune di Roma? Sì, quelle hanno un costo più basso infatti di quelle dell'ATAC, guarda caso. Vedete la questione, infatti siamo arrivati alla conclusione, magari avremmo avuto... però che se nel pubblico dicono che il privato è sfasciato e sia il pubblico più sfasciato d'Italia è dura da sentire. Dai, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, giornale radio, poi andiamo avanti fino alle 9.30 come sapete, altri temi ma anche questi, se volete chiamarci all'800 24 0024 state con noi. C'è poi la lista d'attesa per andare da Berlusconi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, sono le 9:07, siamo in diretta fino alle 9:30. Ti piace questa enfasi? Mi moltissimo. Ed è giovedì. Perché l'enfasi, cioè noi abbiamo un contatore con tutti coloro che tornano da Berlusconi in questo giornale radio. Altri 12 parlamentari si sono avvicinati a Berlusconi. È fantastico. Cioè si sono avvicinati, sono lì in ghiacciaia messi. Sono in ghiacciaia perché Berlusconi è responsabile, non vuole che cada Gentiloni. È buono, fa anche miracoli. Quindi tornate a me, ma al tempo giusto, al tempo, con i tempi contingentati. Pare che lo dica in latino: sinite parvulo, sed festina lenta. Cioè fate tornare i ragazzini da me, ma piano. Giuseppe da Varese, buongiorno. Pronto? Eccoci. Ciao Milan. Ciao. Ciao, come stai? Bene? Benissimo, grazie. Tu? Niente, io chiamo per il tuo buonismo. Per me non risolve niente. Cioè non risolve niente chi è incazzato, che vorrebbe distruggere il mondo, ma anche il tuo... Come posso dire, buonismo l'ha detto. Attirerebbe da dire più duro, solo che stai rimando le parole. Coglionaggine, non lo so, cosa fatichi. No, io ho un piccolo esempio che se peraltro abbiamo iniziato la trasmissione dicendo che sono basito per questa scarcerazione. Però hai detto niente calcio, si riferisce a quando hai detto. Perché vorresti calci in faccia, calci in culo. Prendere che il signore ha detto che voleva prendere a calci calci in faccia. Dice, no, non voglio vivere in un mondo così, però anche in questo mi sembra che non ci stai bene, no? No, infatti ho detto che insomma, più che dire chiaramente in lingua italiana che mi sono basito per il fatto che questa persona sia stata rilasciata, però ho detto niente calci in faccia e calci in culo. Però non so se vuole metterci anche il manganello, l'olio di ricino, vada pure, Giuseppe. In un momento in cui tutti sono basiti e basta, basiti e basta, perché non sanno cosa fare e come mettersi. E come la risolviamo? A calci in faccia? Perché ok, non vuoi che quello dia i calci nel culo, però anche tu col fermarti soltanto a denunciare e dopo? E dopo, Oscar, resti come me, che sono un povero pirla di 63 anni che non sa più cosa fare, capito? No, io sono, penso così, anch'io non voglio la violenza. Io non voglio il ritorno al fascismo autarchico, ve lo dico fuori. Io uso brutalmente formule provocatorie, che invece è diventata una cifra a destra come a sinistra, perché è la figlio, e questo invece lo capisco, di anni di scelte politiche demenziali. E ancora una volta, a destra come a sinistra, e non è populismo dirlo, è un fatto oggettivo. Di sicuro io, nei panni di un magistrato alle prese con la decisione sulla misura cautelare, mi sarei interrogato sul terzo punto che secondo me la sua decisione viola. Quindi io su questo viola, sono molto concreto, e di sicuro l'ho detto da subito, quella misura porta la gente a dire, ma dire che come cacchio, Giuseppe Lavarese, allora, è una spirale che si avviluppa. Ma poi peraltro quel magistrato, il GIP l'ha scarcerato, e un altro magistrato, la PM, sono due donne, invece era per l'arresto, quindi voglio dire, magistrati che la pensavano in maniera diversa. Io la penso, in un caso senza avere il codice alla mano, senza sapere la dinamica, ma visto quello che è successo, ha tentato di accoltellare un poliziotto, penso che debba restare in carcere in attesa del processo, eccetera. Non penso che debba ricevere calci in faccia o in bocca o nel culo, tutto qua. Mirella da Grosseto, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio per la trasmissione, perché mi fa piacere veramente. Insomma, volevo intervenire riguardo a quanto detto dal sindacalista dell'ATAC. Sì. Sono completamente d'accordo con Giannino. Il sindacato però, se non la smette di difendere a tutti i costi i lavoratori che, per carità, come ha detto lui, hanno la necessità di compiere un altro lavoro perché lo stipendio non è sufficiente per magari mantenere la famiglia, e comunque non credo che sia un interesse solo di chi dà il lavoro, è quello di non figurare, perché anche il lavoratore ha dei benefici se l'ISEE non raggiunge. Quindi se non la smettono i sindacati di difendere a tutti i costi queste persone che si comportano scorrettamente, secondo me non risolveremo mai il problema, mai il problema della pubblica amministrazione. No, però, per onestà, Mirella, bisogna dire che il sindacalista ha detto, se c'è qualcuno che sbaglia va sanzionato. Sì, però ha anche detto che il motivo è le basse paghe, pagateci di più. No, il motivo è che durante l'orario di lavoro non si fa il doppio lavoro. Questo è, mi dici così, caro sindacalista, o stai strizzando l'occhio, questa è la verità. Bravo, sì, secondo me, guardi, veramente, non è ora per fare una... Ma secondo me i sindacati hanno un po' questa tendenza a voler coprire sempre. Guardi, Mirella, io non lo so, sembra quasi un assist calcistico, però le raccontiamo la storia. Comprato? Ah no, credevo che fosse l'annuncio. No, Mirella da Grosseto, no. Le raccontiamo la storia e vogliamo salutare un ospite che in questi giorni con i sindacati qualche problemuccio ce l'ha. Si tratta di Heike Schmidt, che è uno storico dell'arte tedesco, ha lavorato negli Stati Uniti e dirige dal 2015 la Galleria degli Uffizi a Firenze, quindi insomma uno dei patrimoni artistici mondiali. Che hanno, e vanno ringraziati. Creduto a questa grande svolta, esatto, che ai vertici degli più grandi poli italiani ci fossero dei bandi internazionali prima che i magistrati amministrativi italiani sollevassero dei dubbi. Vedremo nel merito cosa decideranno, ma intanto ringraziamoli, perché i risultati, cioè i numeri ci sono. Si vedono e ci sono. Allora, direttore Schmidt, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Allora, che cosa succede? Succede che credo siano 480 i dipendenti suoi e una trentina. Sì, abbiamo Allora sì, abbiamo 420 statali più una sessantina di dipendenti di Ales, la società in house del MIBAC che vengono, quindi questo fa 480. Poi è uscito sulla stampa che una trentina si fossero ribellati, cioè questo già numericamente non è possibile, perché noi tra storici dell'arte, restauratori, funzionari, abbiamo in questo momento 17 da pianta organica, avremo effettivamente 14, ma siamo in esubero con tre funzionari stagionati in uscita in questo momento, quindi al momento siamo 17. Poi c'era una riunione con la UIL, il segretario della UIL locale, che in questo caso coincide con quello con il segretario nazionale, Enzo Feliciani, ha scritto poi una lettera con vari punti di criticità, e cioè l'accusa di demansionamento. Hanno accusato alcuni, appunto, di questi dipendenti, non si sa se 30, 20, di demansionamento, e questa è l'accusa nei suoi confronti. Certo, io direi piuttosto una faccia tosta, che proprio loro si lamentano di un demansionamento. Anzitutto c'è un mansionario nazionale, non è che poi viene definito poi in maniera locale. Questo mansionario del storico dell'arte nazionale è in vigore da anni, è stato anche aggiornato pochi anni fa, e quindi vengono enumerate tutte le attività da svolgere dai funzionari storici dell'arte, e queste sono soprattutto, tra l'altro, delle attività di ricerca e di educazione, quindi quello che sta veramente al cuore di un museo. Infatti io ho fondato una divisione educazione e ricerca con vari dipartimenti nei quali stanno anche i storici dell'arte, proprio per dargli la possibilità di dedicarsi di più alla ricerca, di più alle attività educative. Ma qual è, allora, secondo lei, qual è, direttore, il ruolo, la questione in ballo? Cioè perché... allora, alcuni di questi funzionari prima avevano il titolo di direttore, direttore di strutture medie e soprattutto piccole, addirittura qualche micro struttura con soltanto due persone, di cui uno era il funzionario medesimo, quindi e questo però è già decaduto prima del mio arrivo, nel momento che i vari musei di Palazzo Pitti, Giannino Boboli e degli Uffizi sono stati unificati in un grande museo, quindi questo è chiaro che da quel momento non hanno più il titolo di direttore, perché c'è un solo direttore, cioè siamo un solo museo. Meno male che sono tanti vantaggi anche per i visitatori, soprattutto, ma anche per svolgere ricerca all'interno, svolgere l'attività all'interno, che ora viene definito proprio per le varie funzioni, quindi attività amministrative vengono svolte da funzionari amministrativi, da dipendenti della seconda area nell'amministrativo, quelli che sono proprio formati in questo, che sono specialisti di questo, quindi non si fa più certe pratiche senza sapere esattamente come vanno svolti. Però posso interrompere, perché mi mettono i panni di chi ci ascolta, e chi ci ascolta ovviamente non è tenuto a conoscere nei meandri come funziona tecnicamente l'attribuzione dei compiti all'interno di una cosa molto particolare come un grande polo museale pubblico nazionale e noto a livello internazionale. Quindi le faccio una domanda che consapevolmente e stringe un po', per così dire, ed è giornalisticamente un po' forzata, però si ha come un'impressione che il nocciolo vero, al di là della tecnica dell'accusa del demansionamento di chi la critica, che poi è esteso, è il motivo per cui tanti godono di fronte alle impugnative amministrative che hanno sospeso sotto una spada di Damocle tutte le gare internazionali con cui siete stati nominati, avendo accolto questa svolta italiana, è un po' questo. Cioè c'è una parte del mondo MIBAC, e di cui i sindacati sono ovviamente espressione, ma non riguarda solo i sindacati, riguarda fior di dirigenti, sovrintendenti, grandi figure storiche della proiezione esterna di questo mondo, il professor Settis, eccetera, cioè nuovi giovani emergenti della politica culturale italiana ipermarxista, che dicono alla fine, gente come Heike Schmidt non è espressione del nostro sistema, tende a voler decidere senza, tra virgolette, concertare, crede che il decisionismo sia la filosofia aziendalista da seguire, sono questi i termini che usano, allora, lo sa che è un po' così, no, la faccenda, o no? Sì. Ma certamente ci sono le forze riformatorie e ci sono anche le forze controriformate, chiaramente, e questo non è una sorpresa. Per quanto riguarda gli Uffizi specificamente, grazie a questa nuova struttura e il raggruppamento funzionale di dipartimenti in divisioni, per esempio, cioè, non è che c'è a capo una persona che poi decide e poi c'è un grande vuoto e poi ci sono le persone che seguono, ma c'è un dialogo costante soprattutto con le funzioni fondamentali per il museo, cioè, quindi i capi di divisione, che tra l'altro sono tutti italiani, che hanno lavorato in questi musei da anni e decenni effettivamente, quindi lo conoscono bene dall'interno. Molte delle decisioni vengono proprio predisposte da loro, naturalmente secondo una struttura gerarchica come è previsto, seguendo una strategia, questo è chiaro, però dall'altro canto, cioè, non è che ora viene qualcuno da fuori, questo è una polemica piuttosto superficiale, perché non risponde con nessuna delle realtà nei musei. Del come funzionano davvero, certo. Beh, abbiamo un comitato in CDA, abbiamo un comitato scientifico, abbiamo poi il ministero, che è lo stesso ministero di prima, che ci indirizza strategicamente, quindi queste sono tutte... Cioè, ecco, non vi hanno resi padroni assoluti irresponsabili. No, ma è vero che naturalmente i poteri sono cambiati, di avere poi una dozzina di micro regni nanoducati, e loro difendevano questa impostazione, che è un po' uno scontro di culture, nel senso, forse lei dalla cultura da cui proviene non è abituato a gestire, avere un decisionismo che non è Heike Schmidt in Italia una sempre cosa negativa, chi difende il passato tende a presentarsi come se fosse il progresso, questo è una delle caratteristiche di questo paese cattolico trasformista, in effetti a essere calvinisti sia più chiaro il sì sì no no, ma da noi è tutto un po' diverso, è più complicato. Comunque, noi Heike Schmidt la ringraziamo per essere stato qui in diretta Radio 24, ricordiamo il direttore della Galleria degli Uffizi, insomma, abbiamo trattato anche di recente di questa vicenda dei... non è l'unico straniero, insomma, non è l'unico straniero, sono vedremo a capo di varie strutture museali. Sua eccellenza reverendissima, così è stato, cosa deciderà a settembre? Beh, sai, i veri poteri responsabili lo ti sai, rivolgevi da Cardinal loro. Giannino al Consiglio di Stato, ricordiamo che ieri la BBC ha reso noto senza nessun problema la lista di tutti coloro, sono 96 persone che guadagnano più di 150.000 sterline, il tetto non è 240.000, di 150.000, ecco, non ce n'è nemmeno uno, i due più alti che vanno oltre il ministerino, che arrivi a Fabio Fazio. Viva la BBC, ragazzi, che ti dà l'opting out perché sei libero di scegliere i canali su cui non vuoi il servizio pubblico, che a quel punto non hanno la pubblicità ma solo il canone. Viva la BBC, e pubblicano la lista senza tante storie di privacy. C'è Maurizio da Roma, buongiorno, anzi un paese in cui la privacy è sacrosanta. Eppure... Maurizio, eccoci, buongiorno. Buongiorno Milan. Niente, volevo sapere, il metodo di giudizio che si usa in Italia nel giudicare, praticamente, io non sono un dipendente dell'ATAC, e quindi, cioè, perché un dipendente dell'ATAC non può fare un doppio lavoro, mentre un politico tranquillamente può avere 7-8 stipendi, presidente delle comunità montane, la provincia, assessore al comune... e quant'altro, cioè qual è il metodo? No, ma nessuno non si discute sul doppio lavoro, si discute del fatto che alcuni dipendenti ATAC pare facciano il doppio lavoro, nel senso che si mettono, come se lei, se fa un lavoro, si mette in malattia, chiede un congedo, si mette in malattia per dove lavora e nel frattempo va a guadagnare da un'altra parte, quindi salvando stipendio pubblico e facendosi i fatti propri e i soldi propri privatamente. Questo è la questione, Maurizio, capisce? Non è il doppio lavoro in sé, è il doppio lavoro in servizio. Ecco, cioè non è che finito l'orario di lavoro, Maurizio, io faccio il turno notturno in un garage. No. Sì. Non è questo, cioè, è durante l'orario di lavoro in cui esatto. dovevi fare il conducente, cioè, all'ATAC, facendo, faccio il meccanico non in un facendo garage. Circolare l'autobus, perché nel frattempo vado a fare il piastrellista. Le sembra giusto? Il piastrellista, capito? Quindi, ho capito. Questa è la questione, Maurizio. Va bene. Comunque oggi non prende mezzi pubblici a Roma, che sono in sciopero, giusto? Alessandro da Roma, buongiorno. Buongiorno, ciao Alessandro e ciao Oscar. Io sono un ex utente ATAC, in quanto prendo il treno Roma Lido, non lo voglio più prendere perché ha vinto in questi ultimi anni il premio Grant, cioè il treno peggiore d'Italia. E appoggio invece il referendum dei radicali, che invece non vogliono privatizzare, esatto. vogliono una gara. Vogliono semplicemente, esattamente, mettere in concorrenza vari operatori, per cui io utente posso scegliere il mezzo migliore, ad esempio per quella fascia di orario oppure per quel tipo di servizio tratta, e in questo modo non perde nessuno, anzi l'operatore pubblico si impegnerà ancora di più per offrire un servizio migliore e vincere efficiente. In quel tratto. È semplicemente un servizio utile sono ai cittadini. Molto d'accordo. Bisognerebbe estendere questo principio d'oro. Però la politica, siccome depreda le aziende come l'ATAC per 20 anni, tende a non farle le gare, perché quelle le hanno considerate e depredate come borse di soldi a loro servizio per assumere amici, dirigenti amici, parenti. Il motivo per cui poi al basso arriva fino al più ultimo livello della qualifica del lavoratore l'idea di approfittarne, perché hanno visto per tanti anni in alto praticata questa roba qua. No, ma infatti su questo il famoso depredare di soldi, io posso capire che il sindacalista dice non sono i lavoratori che depredano, non credo che ci siano lavoratori che si sono arricchiti di milioni, no, depredando, diciamo, l'azienda. Anche i sindacalisti si sono organizzati perché ci avevano gare interne sulle mense che oramai vincevano anche loro, ma perché? Perché sapevano e vedevano che le gare fuori venivano date agli amici dei partiti. Sì. Alessandro, la ringraziamo. C'è Goffredo sempre da Roma. Credo che questa storia dell'ATAC abbia un po' stuzzicato i nostri ascoltatori romani. Goffredo, buongiorno. Buongiorno a voi. Innanzitutto, sempre forza Roma, Milan. Vabbè. Ci provo quando faccio la trasmissione di lì, ci provo. Ma lui mi sembra giusto. Male. Io dico forza Milan e lei forza Roma. È il bello del tifo, no? Certo. Volevo riprendere un attimo il discorso del magistrato. No, esatto, del magistrato. Sì. Volevo dirvi solo una cosa. Secondo me il grosso problema che abbiamo noi italiani è che non crediamo più nella magistratura, nella certezza della pena. E mi rifaccio anche a quella persona che dopo 4 anni, 5 anni di carcere è stato scarcerato, quella persona che aveva ucciso una persona per strada trascinandola con la macchina. Perché secondo me se noi applicassimo le cose come devono essere applicate e ci fosse la certezza della pena, la gente non continuerebbe a fare queste cose. Io credo semplicemente questo. Va bene, è chiaro, la questione della certezza della pena è una questione anche dell'applicazione delle norme, però qua la norma è stata applicata, non è che... No, se è stata applicata. No, beh, secondo me la reiterabilità del reato doveva indurre il GIP a tenerlo dentro. Forse ci sarà un ricorso. Ho i miei dubbi, mia opinione è per quello che può valere, poi il giudice che decide. Però. Appunto, questa è poi la questione. C'è Marco da Napoli, buongiorno Marco. Buongiorno Alessandro, buongiorno Oscar. Eccoci. Allora... Io volevo intervenire per una breve parentesi visto che è un tema del genere, la parte sindacale. Sì. Perché insomma sono un manager d'azienda, ho girato insomma un po' di aziende nella mia esperienza professionale, ma allo stesso tempo sono un figlio di operai e quindi insomma ho vissuto con la cultura del sindacato, dell'operaio, eccetera. Quindi mi approccio con i sindacati sempre insomma in termini molto propositivi. Però io credo, nella mia esperienza ho avuto due grandi direttrici. La prima è che ci sono effettivamente aziende in cui il sindacato si fa collaboratore dell'azienda e quindi promuove l'innovazione, veramente c'è un grande valore aggiunto, e altre aziende purtroppo dove questo non accade, e a quel punto poi diventa difficile perché diventa veramente una zavorra per l'azienda. Allora, secondo me il confine tra le due cose è molto difficile, sì. Ed è difficilissimo da poter prevenire, ma veramente rischia di generare degli ostacoli nello sviluppo della gente veramente veramente determinanti. Io credo che questo sia il tema più importante, sì, che la politica debba applicare verso il sindacato, cioè come far sì che il sindacato diventi il valore aggiunto per l'azienda. Sì, non, ok, va bene Marco, con questa riflessione dobbiamo però chiudere un po' presa in corsa, è di buon senso che non volevo toglierlo, ma siamo proprio in chiusura di trasmissione, e anche oggi il resto della giornata per noi torinesi vedere se Belotti resta o se ne va. Ma siete proprio ossessionati da questo, ma è così forte? È una domanda. Non lo so, dipende. Cosa è importante? Visto che lo volete, per il Torino. Lo volete. Beh, per il Torino è il più importante, che questo Milan così stellare, ormai così vediamo, tanti soldi. Vediamo 120 milioni e basta. Così ve li buttiamo lì sul tavolo. No, per 120 milioni si può, credo che Cairo ti direbbe che si può fare per 120 milioni. Dai, a domani. Va bene. Ciao.